Rimandiamo la registrazione di un'iniziativa che si è svolta lo scorso 8 aprile presso la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, dal titolo Quei bravi ragazzi, la violenza contro le donne nel racconto della stampa. Si tratta dei resoconti di dati tratti dall'osservatorio STEP Ricerca e Informazione. Ne parlano Flaminia Saccà dell'Università La Sapienza di Roma e la giornalista Mimma Calligaris. Buon ascolto. Quando abbiamo pensato di presentarli, abbiamo pensato che fosse urgente. E presentarli oggi si è rivelato ancora più urgente, perché i dati di questi giorni sono veramente, ci dimostrano come c'è la necessità, anche per chi fa il nostro lavoro, di prendere coscienza di un linguaggio, perché un linguaggio è il primo passo per un cambiamento. Non lo dice solo il Manifesto di Venezia, di cui questo osservatorio monitora appunto anche l'adeguamento nei codici di comportamento dei nostri colleghi e delle nostre colleghe, ma lo stesso codice deontologico dei giornalisti e delle giornaliste dell'Ordine, che entrerà in vigore dal 1 giugno 2025, ha delle raccomandazioni molto serie in questo senso, e questo non può che farci piacere, perché veramente il primo cambiamento nasce dal linguaggio, perché il linguaggio è la pietra che scardina la realtà. Io non voglio portare via altro tempo, perché ci sono dei dati molto interessanti, poi magari le riflessioni le possiamo fare dopo, però partivo dai dati. Qui con me ci sono appunto Flaminia Saccà e Mimma Calligaris, che hanno lavorato per un anno su questa cosa, e sono contenta che oggi possiamo portare questo risultato importante. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie Mara. Oggi veramente è una giornata complicata, abbiamo fatto confusione su tutto fino adesso, invece adesso arriviamo ai dati precisi. Intanto ringrazio molto Mara Pedrabissi, presidente della CPO, della Federazione Nazionale della Stampa, e ovviamente Mimma Calligaris, che lavora con noi all'Università Sapienza con un contratto proprio specifico sull'analisi dalla prospettiva di una giornalista della stampa. Noi invece, come team di ricerca, non sono soltanto io, ma qui c'è il professor Luca Massida, la dottoressa Rosalba Belmonte, la dottoressa Maddalena Carbonari, la dottoressa Fabrizia Pasciuto e la giovanissima dottoranda, dottoressa anche lei, Lucia Pelle. E facciamo insieme un lavoro di monitoraggio analisi. Abbiamo poi, ciao, buongiorno Cecilia, grazie di essere qui, alla senatrice Cecilia D'Elia. E, facciamo con le studentesse e gli studenti del corso di laurea in Gender Studies dell'Università di Roma La Sapienza un monitoraggio quotidiano su 25 testate nazionali, e adesso ve le presento. E possiamo farlo grazie a un finanziamento pubblico. Noi abbiamo, come team di ricerca, scritto diversi progetti, li abbiamo presentati a bando, ne abbiamo 22, uno lo coordino io a livello nazionale, uno lo coordina la dottoressa Rosalba Belmonte, e grazie a questo possiamo avere dei finanziamenti pubblici che ci consentono un lavoro assolutamente indipendente, come diceva giustamente Mara Pedrabissi, è autonomo, scevro da qualunque tipo di, come dire, di condizionamento. Come vedete qui abbiamo estrapolato su 25 testate monitorate quotidianamente gli articoli che riguardano la cronaca, e abbiamo analizzato 3671 articoli. Tra questi ci siamo resi conto che soprattutto il Messaggero è quella testata che si è dedicata maggiormente al tema della violenza maschile alle donne, con il 9,9% degli articoli totali da noi analizzati, seguito dalla Gazzetta del Mezzogiorno e dal Gazzettino. Qui vedete, insomma, la lista completa, è veramente ad ampio spettro l'analisi. Poi vedete qui, ci vado molto rapidamente, la fluttuazione delle presenze di articoli mese per mese su questi temi, e vediamo che soprattutto a novembre, durante, diciamo, il periodo della Giornata Internazionale contro la violenza alle donne, che la stampa si occupa maggiormente di questi temi, mentre maggio è stato il mese l'anno scorso con meno presenze. E poi è interessante per noi andare a vedere di quali tipi di reati specifici si occupi la stampa. Come vediamo, si occupa soprattutto 8 di femminicidio con il 25% degli articoli. A seguire poi troviamo articoli relativi alla violenza domestica, alle lesioni personali con il 18% e violenza domestica soltanto il 17%. Dico soltanto e lo sottolineo perché, come potete vedere da questa slide, nel grafico a torta a sinistra, in realtà la violenza domestica è la tipologia di reato assolutamente più frequente rispetto a qualunque altro reato di violenza maschile alle donne, con, e vediamo i dati della polizia del 2024, il 50,03% dei reati. La stampa se ne occupa per il 17% e peraltro in concomitanza con reati anche diversi e più gravi. Per esempio troviamo articoli in cui si parla di violenza domestica che va avanti per anni e poi sfocia in un femminicidio. Questo è un tema a cui invece vorrei lanciare, su quale vorrei lanciare un appello, perché il tema della violenza maschile alle donne che viene perpetrata da chi ha le chiavi di casa, dal partner o dal proprio compagno, è il tema veramente più frequente e più importante che bisognerebbe affrontare. Quando, come vediamo poi dagli articoli, andiamo a analizzare la relazione tra vittima e offender, vediamo che ben il 74% degli articoli tratta di casi di violenza in cui la donna conosce il proprio aggressore. Quindi diciamo la narrazione che è l'uomo sconosciuto per strada, magari di etnia diversa dalla nostra, francamente non la ritroviamo consistente nei dati. Vediamo poi che quando parliamo di relazione, sostanzialmente la violenza è agita da una persona appartenente all'ambito familiare della vittima, ed ecco qui che torno, no, all'importanza anche della violenza domestica, con oltre il 70% degli articoli, seguita da conoscenti generici il 16% e da relazioni lavorative con il 3%. Non che siano soltanto il 3% i casi di molestie sul lavoro, ma se ne parla nel 3% degli articoli. In quel 3% dei casi occorsi nelle relazioni lavorative si tratta nel 69% di casi di collega e o ex collega e nel 31% dall'attuale o ex datore di lavoro. Se questo vi sembra controintuitivo, pensate in realtà che agli uomini non serve essere vostri capi per molestarvi, gli basta essere uomini. Mi spiace, ahimè, la realtà che emerge dai dati è abbastanza implacabile. Poi se andiamo a vedere più nello specifico i casi degli articoli di violenza domestica, e quindi estrapolando solo quel 17% di articoli che parlano di violenza domestica, in quel 17% il 73% dei casi provengono sostanzialmente da uomini con cui la donna ha o ha avuto una relazione. Minori ma non irrilevanti i casi in cui l'offender viene identificato, ahimè, con il padre. E abbiamo fatto un focus specifico, adesso il prossimo rapporto lo faremo su questo. Il 5% degli articoli riguarda appunto il padre che esercita violenza sulla figlia, un altro membro della famiglia 2%, il fratello lo 0,5%, il patrigno lo 0,4%. Abbiamo appena visto come la violenza poi contro le donne si agita nel 92% dei casi da un uomo con cui la donna ha o ha avuto una relazione. Tra questi, come vi dicevo, è soprattutto l'ex partner. E tra l'ex marito o l'ex partner prevale l'ex partner, non l'ex marito. Poi se andiamo a vedere rapidamente a quale tipologia di reato sono legate queste diverse figure, noi vediamo che tra i conoscenti generici o tra gli sconosciuti troviamo soprattutto il reato di violenza sessuale. Quando parliamo di ambiente lavorativo o di una figura medica, perché è successo anche questo, figura medica o peggio ancora, lasciatemelo dire, da docente educativa, sono riportati per lo più casi di violenza sessuale. Invece i casi di uomini con cui la donna ha o ha avuto una relazione sono legati a femminicidio, lesioni personali o stalking. La diffusione illecita di immagini, qualcuno prima di voi mi chiedeva quali sono le parole giuste e quelle sbagliate da usare, per favore non usiamo revenge porn, siamo assolutamente contrarie come team di ricerca all'utilizzo di questo termine, perché revenge vuol dire vendetta e presuppone che lei abbia fatto qualcosa tale da meritare in qualche modo una vendetta di lui. In realtà il reato, come sapete, si chiama diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, noto come revenge porn, ma per favore cerchiamo magari di usare un altro termine. È associata prevalentemente ai casi in cui il responsabile della violenza è un compagno di scuola o università. Come viene framing, è un termine tecnico che significa come viene inquadrato, incorniciato, interpretato il problema. E qui vediamo che nei casi di violenza domestica tra una coppia o ex tale, il rapporto finalmente cominciamo a leggere che è rappresentato come problematico. Dico finalmente perché noi come team di ricerca abbiamo iniziato nel 2017 e in questi anni non è che non sia cambiato nulla, per fortuna qualcosa cambia e anche in meglio, anche se c'è ancora tanta strada da fare. Mentre sono quasi del tutto assenti gli articoli in cui il rapporto è definito normale, 0,6% dei casi, o romanticizzato, e questo veramente è un ottimo segnale. Quando poi andiamo a vedere qual è il movente dell'aggressore, dell'aggressione definito dallo stesso articolo, naturalmente, nella maggior parte dei casi vediamo che c'è una chiaramente inquadrata, in maniera corretta peraltro, la prevaricazione e il dominio nel 46% dei casi, seguito però da gelosia e possessività. E qui cominciamo a entrare invece in un ambito interpretativo più complicato, perché se parliamo di gelosia stiamo in qualche modo romanticizzando ancora un rapporto che di fatto è violento e che forse non è bene definire come romantico. Minore il raptus, che anche questa è una grande conquista, perché sapete bene che il raptus non esiste, non ha proprio fondamento scientifico, eppure per anni abbiamo visto invece addurre a un raptus tanta violenza maschile alle donne, e qui lo troviamo nel 3% dei casi. Tuttavia, le cose cambiano quando cambia la tipologia di relazione, soprattutto di vittima. Noi purtroppo ci siamo resi conto, analizzando non solo la stampa, ma anche tante sentenze, che la tipologia di vittima fa una certa differenza. Per cui, se la tipologia di vittima è la figlia che tutte vorremmo, eccetera, eccetera, la si rispetta maggiormente in quanto vittima. Mentre se è una persona diversa, lì le cose cambiano. Qui, per esempio, le donne anziane o portatrici di handicap o malattia, le vediamo rappresentate con ben il 34% degli articoli che parlano di raptus. Che vuol dire questo? Che spesso troviamo casi in cui lui uccide lei perché dice che non ce la fa più o per liberarla da una sofferenza. Ecco lì allora che troviamo addirittura scritto, non soltanto nella stampa, ma addirittura nel racconto dei giudici, che l'ha fatto come un femminicidio altruistico. Poi, quando ci siamo chiesti chi è che parla, quando la stampa dà diritto di parola a qualcuno, e nei casi di violenza domestica, chi è che dà diritto di parola? A lei, o a lui, ai familiari di lei o ai familiari di lui, agli avvocati di lei o di lui. Bene, in generale, se parliamo di familiari, dà soprattutto la parola a quelli della vittima. Se invece parliamo di avvocati, vediamo che la presenza è pressoché uguale. Poi abbiamo deciso di andare a vedere quali fossero le parole più frequentemente usate per raccontare la violenza, e quindi abbiamo creato delle word cloud. Sapete che le word cloud derivano da dei software che proprio tu gli dai in pasto tutti gli articoli e lui ti tira fuori in ordine di grandezza le parole più usate. E poi siamo andati anche a vedere come veniva definita la vittima o l'offender. Allora, quello che emerge è che nei titoli si comincia a vedere meglio lui. Tuttavia, se andiamo a vedere nel complesso e consideriamo tutti i testi di tutti gli articoli analizzati, la violenza resta ancora una questione che riguarda soprattutto le donne e non gli uomini che pure la agiscono. Lo vediamo nell'assenza delle figure maschili o scritte comunque in piccolo in posizione marginale nella word cloud di destra, quella dei testi. Voi vedete che al centro c'è donna. Cioè, quindi a chi riguarda, di chi è il problema della violenza? Delle donne. Poi c'è violenza, c'è casa, c'è lei, c'è vittima, donna e ragazza sotto, e poi c'è scritto marito in piccolissimo sotto la D, che l'ho dovuto cercare, altrimenti facevamo tutte fatica a trovarlo. Poi c'è un lui sopra la D donna, c'è ex, poi c'è uomo sopra la D violenza, ma sostanzialmente vediamo che al centro, in grande, c'è donna, ragazza, vittima, donne. E questo devo dire è interessante. È un cambiamento che noi vediamo già nei titoli, qualcosa si compare, c'è cioè ex al centro. Nel 2017 la prima word cloud che facemmo l'abbiamo intitolata Trova il colpevole. perché lui non compariva mai. Qui finalmente comincia a comparire nei testi, ma vediamo che ancora nei titoli, scusate, ma vediamo che è ancora marginale nei testi. E poi quando andiamo a vedere come viene definita la vittima e come viene definito l'offender, noi vediamo che la vittima viene definita sostanzialmente per la sua età anagrafica, c'è ancora poco della prospettiva di una donna che vive violenza in questo racconto, e vediamo in piccolo, proprio in piccolo, in basso, sconvolta, terrorizzata e paura, cioè in piccolissimo, dall'alto, e quindi c'è poco, diciamo, la prospettiva di una donna che vive violenza, che invece forse meriterebbe di essere raccontata di più e meglio. Per quello che riguarda gli aggettivi dell'offender, cominciamo a vedere, appunto, c'è ex, che poi abbiamo visto è sostanzialmente colui che maggiormente agisce violenza, si comincia a definire violento in maniera però più marginale, geloso, che riteniamo appunto un po', come dire, pericolosa come tipo di interpretazione se lasciata a se stessa, brutale, e poi vediamo una certa insistenza sull'origine etnica del maltrattante, vediamo italiano, marocchino, egiziano, romeno, albanese, nigeriano e straniero. Tuttavia, questa è, diciamo, la sintesi dell'anno 2024, abbiamo voluto fare dei focus, sono molto brevi, però ci danno il senso di come la prospettiva cambia anche a seconda della tipologia della vittima. Abbiamo voluto fare un focus sulla violenza dei padri patrigni e sui casi di violenza su donne con disabilità. Qui vediamo in questo caso le tipologie di reato nei casi in cui viene agita da padre o patrigno. Questi sono i casi di violenza agita da padre o patrigno. Se vedete a destra, a sinistra è quella di prima, standard anno 2024, a destra il focus nel caso in cui la violenza sia agita da un padre o patrigno. Bene, finalmente per la prima volta noi vediamo messa ben a fuoco la realtà della violenza, e comincia a emergere anche uno stigma sociale che non vediamo in tutti gli altri casi, cioè il violento grande al centro, poi vediamo violenti, poi vediamo orco, che riteniamo sbagliato perché gli orchi non esistono, dobbiamo insegnare anche alla società a riconoscere che questi uomini sono uomini sì violenti, ma che vivono vite assolutamente normalissime e vivono in mezzo a noi, di solito il vicino di casa li descrive come tanto gentili ed educati, e quindi è inutile parlare di orco perché poi l'orco non lo riconosce nessuno e l'orco non esiste. Tuttavia si comincia a parlare di mostro, anche lui mostro, aggressivo, padre padrone, padrone in grande, violento, e cominciamo quindi a vedere delle tracce di stigmatizzazione. Soprattutto si inizia a percepire l'inaccettabilità del fenomeno in questi aggettivi: violento, pedofilo, inquietante, mostro, padrone, terribile, pericoloso. E poi andiamo a vedere invece che cosa succede quando la violenza è agita su donne anziane, portatrici di handicap, disabilità o malattia. Qui per avere una casistica piuttosto grande, come nel caso precedente, abbiamo dovuto allargare lo spettro, non ci siamo fermati al 2024, ma siamo andati dal 2020 al 2024. In questo caso invece all'opposto noi vediamo tornare in auge prepotentemente l'empatia verso il femminicida. È malato, è anziano, è ottantenne, esasperato, è provato, è disperato, è gentile, è mite. Sentite questi aggettivi? Come non stigmatizzano ma empatizzano verso di lui? È un'altra narrazione, un altro racconto che ci porta in maniera evidente a quello che noi chiamiamo con la filosofa Kate Mann empathy, strategie retoriche di empathy. Empathy è chiaramente una crasi tra him, di lui, e empathy, cioè l'empatia che si sottrae alla vittima e viene invece offerta al suo maltrattante o addirittura al suo femminicida. Si assume quindi in molti casi la prospettiva autoassolutoria vittimistica dell'offender. Lui piange, anche ieri, l'altro ieri abbiamo visto un titolo del femminicida della nostra studentessa di Sapienza, peraltro Ilaria Sula, e l'abbiamo visto su un titolo a Lettere Cubitali, che lui era disperato, non voleva mangiare e piangeva. L'amava tanto, era depresso, era preso da un raptus o suoi equivalenti funzionali, come per esempio un turbine o un moto emotivo incontenibile, o come nel caso delle portatrici di handicap che sono malate o anziane e il femminicidio viene rappresentato appunto addirittura come altruistico. Qui vedete molto rapidamente due esempi. Ha sparato alla moglie e si è costituito. L'ho fatto per mettere fine alla sua depressione. Ora, attenzione ai virgolettati, questo lo dico dal 2017, lo ripeto a ogni occasione. Certamente è parte del vostro lavoro virgolettare, ma se si lascia il virgolettato in maniera critica, specie poi nei titoli, è quello che di fatto costituirà la cornice interpretativa con il quale verrà letto il fatto anche dal lettore. Per cui se non si accosta a quel virgolettato una frase che prende le distanze, resta come framing interpretativo, cornice interpretativa, il fatto che in qualche modo lui avesse anche le sue ragioni, che perché l'ha fatto per mettere, la si prende per buona quella frase, l'ha fatto per mettere fine alla sua depressione, per liberare la moglie, vedete l'altro virgolettato, e come viene presentato lui? Come una persona tranquilla, e addirittura troviamo di nuovo il raptus in questo articolo. In quello successivo, addirittura nel titolo, uccise la moglie malata terminale, sconto di pena, un gesto altruista. L'altruismo, se vedete, viene ribadito anche nel testo, non per non far più soffrire una donna. Insomma, lui di fatto, sappiamo poi che le mette un cuscino davanti alla faccia e la uccide. Non so immaginare un gesto più crudele, anche una morte forse più atroce di una che muoia per soffocamento. Quindi ribaltare così la narrazione è veramente, cioè colpisce parecchio. Da ultimo, molto rapidamente vi faccio vedere anche questi casi che immagino saranno nella vostra memoria perché sono abbastanza noti, no? In uno, una tipica strategia di empathy, non volevo, addirittura è stata la mia ragazza a dirmi di avere un rapporto, stiamo parlando di uno stupro, di un rapporto con quella ragazza, quindi in qualche modo si demanda allo stupratore, al presunto stupratore, il racconto e l'inquadramento del problema, addirittura gli si concede di derubricare un reato, che è lo stupro, al rapporto, che ovviamente non è un reato. Filippo Turetta piange in aula, volevo allungare il tempo insieme a Giulia, occhi bassi. Non ci fa un po' pena uno che piange, che era tanto innamorato, che voleva allungare il tempo con la sua amata? È una modalità di narrazione che non offre giustizia né al lettore, perché gli stanno travisando i fatti, né tantomeno alla povera Giulia e alla sua famiglia. Da ultimo, molto proprio rapidamente, in una rapida carrellata, questo è il frutto di un workshop fatto con le studentesse e gli studenti del corso di laurea in Gender Studies di Sapienza. Hanno proposto loro di fare un'analisi sulle immagini, non solo sui testi come facciamo come team di ricerca, ma sulle immagini, e ritengono rivittimizzante la donna quando viene rappresentata come fragile vittima di violenza di un uomo in questo modo, perché poi spesso le donne in realtà, anche se hanno vissuto violenza, sono in realtà delle vere leonesse e te lo raccontano se hai la bontà di intervistarle, la lotta feroce che hanno dovuto condurre per restare vive, per difendere i loro figli e per sottrarsi dalla violenza. Fare attenzione a non stereotipare le donne tra sante e prostitute, che è un classico. Qui vediamo la donna moglie e madre che viene insomma rappresentata sempre col marito sorridente, che è poi lo stesso che l'ha uccisa, però come una bravissima donna moglie e madre, e poi eccola là invece la donna prostituta erotizzata, sminuita, in realtà è una vittima anche lei tanto quanto le altre di sopra. E allora gli abbiamo chiesto: come vorreste che fosse rappresentata in immagine la violenza alle donne? E questa è la loro risposta, delle nostre studentesse e studenti, cioè donne non isolate, non fragili, che non subiscono, ma che insieme ce la fanno e acquisiscono una loro voce. Grazie dell'attenzione. Grazie alla professoressa Flaminia Sacca. Se avete delle domande le terrei in fondo, perché prima darei anche il contraltare a Mimma Caligaris, che appunto, oltre ad aver presieduto prima di me la Commissione Pari Opportunità, è anche il braccio operativo per noi all'interno dell'osservatorio, ha fatto tutta un'analisi su questi dati. E può contemperare anche la necessità di mettere insieme due istanze diverse, perché da un lato c'è il mondo dell'accademia che ci dà questi suggerimenti molto utili, molto importanti anche per migliorarci, per fare questo salto di qualità, perché ci rendiamo conto che il nostro lavoro è fondamentale nel migliorare la realtà, perché soltanto con una giusta narrazione si costruisce un giusto pensiero. Però dall'altra parte il nostro lavoro è ancora fatto molto spesso di stereotipi per la velocità con cui si lavora. La cronaca nera l'ho fatta tanto anche io, quindi a volte la velocità ci rende difficile, no? Contemperare le due necessità e quindi credo che ora Mimma Caligaris potrà anche darci questo sguardo mediano. Ringrazio anch'io la senatrice che è arrivata. So che ieri era ai funerali di Ilaria. Sì, è vero, è vero, è vero. Si è messo da dietro, Ah, ma è vero. grazie, E so che era ieri, e so che era una studentessa dell'Università La Sapienza. In questi giorni abbiamo ragionato molto su questo fatto che ci ha molto turbate, e mi fermo qui, prego. allora, innanzitutto buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. È stato un impegno davvero molto stimolante perché mi ha portato a vedere come noi raccontiamo, cioè come partendo da un fatto, come viene raccontato, i diversi approcci, le parole che usiamo, tutto quello che ci siamo detti scrivendo il Manifesto di Venezia, per chi ha partecipato all'elaborazione del Manifesto di Venezia, come diceva prima Mara, anche adesso dell'articolo 13 del nuovo testo unico deontologico dei giornalisti e delle giornaliste, che entrerà in vigore fra poco. Peraltro già il 5 bis conteneva alcuni elementi che sono stati sviluppati. Quindi, quando io approccio questi articoli, cerco di vedere sia al momento, quindi cercate di analizzarli, sia nel momento in cui vengono scritti, perché a volte anche la fretta e il tempo che ci corre velocissimo e le pressioni che possono arrivare possono portarci in qualche modo, non aiutarci a dare una rappresentazione corretta. E io parto, mi sono fatta questa domanda, che è un po' la domanda che potremmo farci tutti. Il linguaggio giornalistico in Italia oggi aiuta davvero e sempre a comprendere il ruolo e la responsabilità dell'autore di una violenza, qualsiasi violenza contro le donne, o invece finisce per colpevolizzare le vittime? Questa è la prima domanda che mi sono posta analizzando i diversi articoli, perché è importante l'approccio narrativo, e i termini che noi usiamo rischiano ancora di consolidare degli stereotipi che ci portiamo dietro, che sono un po' radicati nel nostro substrato socioculturale, e quindi diventano questi stereotipi quasi come una sorta di, permettetemi questa parola, di mandanti del reato che viene commesso. Quindi si è fatta molta strada. Da anni io seguo questo tipo di narrazione, la narrazione della violenza, e ho notato che veramente lo spartiacque, oddio, diventa difficile definirlo tale, ma per chi fa questo tipo chi approccia, chi fa cronaca, chi racconta di violenza contro le donne, il femminicidio Cecchettin rappresenta uno spartiacque importante anche per noi. E ha rappresentato uno spartiacque per tantissime ragazze che si sono sentite, hanno trovato la forza di uscire, di andare a parlare con i centri antiviolenza, con le associazioni, ma che si occupano di denunciare comportamenti che non gli sembravano, erano sgraditi, ma non riuscivano a tirarli fuori. Quindi quello è stato dirompente, ma lo è stato anche per noi, perché ci ha spinto a usare le parole giuste. Perché se io dico, provate a pensare, se io dico, come trovo, che una donna è morta, e se io invece dico che una donna è stata assassinata, c'è una differenza sostanziale che mi permette di percepire meglio il fatto. Quindi, se io do delle. Non posso dire che il femminicidio, ridurlo a una tragedia, noi lo troviamo, è uno degli errori maggiori che troviamo, e lo troviamo ancora un pochino ripetuto, non è una tragedia, perché se io lo dico così lo riduco moltissimo e attenuo, finisco in qualche modo per attenuare la responsabilità del reo. Insomma, è successo, e questo ci deve portare alla domanda che noi dobbiamo fare, perché le cornici semantiche e le costruzioni sintattiche hanno un effetto molto importante sulla percezione della violenza contro le donne. Noi abbiamo un ruolo importantissimo, esaminando questi articoli me ne sono resa conto che ancora di più, me ne sono convinta ancora di più, di attivare queste trame di cambiamento. Le trame di cambiamento nella narrazione della violenza, che sono formative per la società, non sono soltanto formative per noi che facciamo informazione, ma devono essere formative per tutta la società, per provare a cambiare, passano dall'informazione. Se io mi limito a dire che la violenza di genere è un problema, è riduttivo di nuovo. Non è una lettura corretta, è una lettura semplificata, non è soltanto un problema. Ecco, in questo anno, in questo 2024, abbiamo smesso, o lo diciamo molto meno, di dire che la violenza di genere è un problema. E questo perché il giornalismo italiano si è reso conto dell'importanza di avere un ruolo attivo in queste trame di cambiamento, che è un cambiamento culturale. Questo determina una società che non giudica, mentre molti articoli in passato instillavano questa idea di giudicare, non colpevolizza la vittima, che è uno dei rischi maggiori in quale si incorre, non dà spiegazioni sensazionalistiche. E questo cosa porta? Porta ad una lettura equilibrata, più equilibrata della violenza, una rappresentazione più equilibrata, porta ad attivare anche un cambiamento. Questo per dirvi, allora è tutto, insomma, questo 2024 ci ha cambiato, questo 2024 ci ha reso migliori, non ancora del tutto. Sicuramente, cosa ho notato? È cambiato il modo anche di presentare il maltrattante. Prima, provate a leggere, io cito sempre il caso genovese, lo cito perché c'è stata una ripresa a settembre, quando si è parlato di lui per la sua attività di riabilitativa in un centro che si chiama Wall of Dolls, che si occupa delle donne vittime di violenza. Quando è uscito il caso di Genovese, se lo ricordate, lui non è stato definito, aveva la violenza più efferata, queste giovani donne drogate, veramente avevamo tantissima documentazione, però lui sui titoli è stato il re delle start-up. Il primo titolo è stato questo. Ora sono state le colleghe di Alley Hope, perché era uscito Ce n'è una qua, ore. Peraltro, si sono ribellate, quella narrazione è cambiata subito. Adesso si parla di lui, si è parlato, si è raccontato, e quindi questo articolo che è comparso a settembre è un articolo che può essere scritto a quelle che noi anche nella scheda di classificazione definivamo buone pratiche, sono state definite buone pratiche, cioè il racconto del cambiamento, il racconto del percorso di riabilitazione, il racconto di uno che ha commesso violenza e che pure ne esce, però non è proprio perfetto, se vogliamo essere, perché poi c'è un passaggio in questo articolo che dice che, parlando del suo periodo trascorso in comunità, ve lo cito, per far sparire i fantasmi che annebbiavano la sua mente da quando aveva smesso di occuparsi delle start-up che lo avevano reso ricchissimo. Quindi la start-up torna, il passato torna, lo sforzo che da fare resta, però questo secondo me è già un caso di narrazione equilibrata. L'equilibrio cade quando raccontiamo la storia di Caffo. Vi cito un altro caso abbastanza famoso sul quale l'Osservatorio è intervenuto con una sua nota. Ricordate la condanna a 4 anni per lesioni aggravate e maltrattamenti gravi alla ex compagna. È diventato un eroe. Per alcuni giorni Caffo è diventato un eroe da una parte per qualcuno, una vittima per qualcun altro. La famoso titolo "Colpire uno per educarne mille", che sa di regimi, scusatemi questo titolo, però è stato ricorrente in molte testate. Quindi ha parlato lui per 2 giorni. Lui aveva una sentenza, è vero che in questo è un paese delle sentenze, cioè non siamo fino al terzo grado di giudizio, ma parlava solo lui. La ex compagna, che aveva subito anche un calcio, perché poi è emerso mentre era incinta, parla 48 ore dopo di lui. E quindi in un paio di articoli soltanto. Quindi guardate, il diritto di parola era stato dato a lui il diritto di parola, a lei dopo. molto dopo. In più, questo è un caso di squilibrio, ma anche un caso di lettura politica della violenza, che è uno delle, ancora delle, dei vulnus di questa narrazione. Lui è stato, diciamo, ma come l'uomo, il filosofo della sinistra, dove sono finite le femministe, non prendono parole. In realtà si sono ribellate molte, di articoli ce ne sono state, di iniziative ce ne sono state, ma molto marginalizzate. Quindi quando noi, uno dei rischi che ancora corriamo adesso, e non soltanto nel caso Caffo, è di avere una lettura politica della violenza, o politicizzata. Quindi la violenza diventa un momento per parlare di altro. La vittima finisce in un cono d'ombra. Ricordate il caso, è uno dei casi di squilibrio e di utilizzo politico della narrazione della violenza contro le donne, il caso della giovane toscana, lei di 30 anni, accoltellata dal suo ex a Oslo. Il titolo di un quotidiano era «Lei italiana lo lascia». Lui, indiano, la sgozza. Questo era il titolo. Poi dentro il corpo dell'articolo era anche scritto corretto, perché l'aggressore era di origine indiana, ma era un cittadino norvegese. Questo è specificato, ma se io do quello, come diceva la professoressa Sacco, do quel titolo, contestualizzo in quel modo, io ho quella percezione, quel framing, cioè e lui è l'extracomunitario, è l'indiano, è lo straniero che colpisce. Stesso approccio un po' politico, ricordate uno stupro di una giovane di 13 anni a Catania durante i festeggiamenti per Santa Rosalia. Allora, oltre a dei particolari molto voyeuristici, che su questo è un altro degli scatti in avanti che bisogna compiere, nella narrazione, perché c'erano dei dettagli anche molto ricercati, sicuramente per catturare qualche lettore in più o qualche click in più, perché già c'erano sull'online, si dice dove sono quelli che, dov'è la sinistra che si ribella, sono 7 egiziani, è colpa dell'immigrazione, i dati del Viminale dicono che gli stranieri stuprano 8 volte di più degli italiani. Non è vero, a parte che i dati sono diversi, ma dove è finita la ragazza di 13 anni? Non c'è più in quella narrazione, il motivo scatenante per tutta una serie di ragionamenti. Ecco, questo è uno dei motivi su cui dobbiamo ancora lavorare in questo percorso di crescita. L'altro è quello dell'uso dei virgolettati. La professoressa Sacca già lo citava, ma è duplice. C'è un caso di un femminicidio, accaduto in una piazza centrale di Collegno, che è una città nella periferia, nell'interno di Torino, e l'inizio è mi hai rovinato la vita, le spara e poi si suicida. Però mi hai rovinato la vita, quindi lui non parla più, è quello che lui urla in questa piazza prima di giustiziare la moglie, perché dopo 2 colpi la fa alzare e le dà un altro colpo. Questo è proprio il virgolettato sbagliato, perché parla, tra l'altro lui non c'è neanche più, quindi riporto una frase. Quella è una narrazione colpevolizzante, quindi la donna l'ha ammazzata, alla fine si è meritata i 4 colpi di pistola, peraltro con matricola Brase presa, quindi la premeditazione è un altro argomento sul quale dovremmo riflettere e parlare un pochino di più nei nostri racconti giornalistici. E lei la colpa, insomma, alla fine gli ha rovinato la vita, che cosa poteva aspettarsi d'altro che l'ammazzasse con 4 colpi di pistola? Quindi il virgolettato è pericoloso in un altro modo. In 3 femminicidi successi in zone diverse dell'Italia è stato messo il virgolettato di minori. Minori, un bambino che parla, un minore di 6 anni, un bambino che ha 6 anni. È un caso, la mamma, lui telefona, la zia non sente la madre che risponde, risponde questo bambino al telefonino, gira il telefonino verso e inquadra la donna vittima, la donna ammazzata. Questo si racconta, ma Questo lo si poteva raccontare benissimo senza mettere in bocca la parola a lui, al bambino di 6 anni, papà ha ucciso mamma. Si poteva dire in altro modo, si poteva dire benissimo, i bambini l'hanno scoperto, possiamo usare, cioè, i titoli sono il nostro mestiere, non essere il nostro mestiere, poi a volte non è neanche chi scrive il pezzo che fa il titolo, ci tengo a dirlo, quindi non colpevolizziamo, magari pensiamo guarda che titolo brutto, pessimo ha fatto, in realtà magari non lo fa l'autore, la giornalista o il giornalista, però ancora insistito nel pezzo, in quel pezzo si dice... si riportano di nuovo il virgolettato del bambino che dice alla zia papà ha fatto un danno, ha ammazzato la mamma. Quindi il femminicidio è un danno? Questo è, riportando poi la voce del padre, ho fatto un guaio nelle sue prime dichiarazioni. Quindi il femminicidio tolto, ridotto, ma facendo parlare... Questo è l'uso delle parole, proprio questo sforzo nell'uso delle parole. Oltre, vi dico, a non far parlare i minori, perché in un altro caso sono due bambini di 11-12 anni che aprono alle forze dell'ordine perché il papà aveva ammazzato la mamma e poi si era tentato di tagliarsi le vene. Il bambino è 11-12 anni, l'unico virgolettato in un solo articolo è che uno di loro dice sentivo suonare, nessuno andava a aprire, sono andato a aprire io, ho trovato i vigili del fuoco e il team del 118 che era intervenuto. Altro caso, un bambino, è sempre di nuovo, qui sono tre minori, si riporta il virgolettato del bambino che dice, continua a ripetere, pensate, il dramma di una violenza assistita continua, gli virgolettiamo, 5 coltellate, 5 coltellate. Quindi il bambino di 6 anni ha impresso quell'immagine, pensate che cosa si porta dietro, e noi gliela perpetriamo con questo. Ecco, quindi in questo non è non darla la notizia va data che c'erano tre minori all'interno, va data che la bambina non ha parlato più per giorni, ma va data usando gli strumenti che abbiamo, il potere delle parole che abbiamo, la capacità di usare le parole e di non abusare delle parole, perché questo nella violenza può avere dei danni. Del femminicidio altruistico, che in realtà è egoismo puro, ha parlato Flaminia. Io cito però un caso che a me ha colpito molto, perché è avvenuto vicino a casa mia. Ed era una madre che accudiva un figlio disabile da 25 anni. Il padre arriva e ammazza lei, cioè ammazza il figlio, ammazza lei e poi si suicida. Nella narrazione, questo è un figlio disabile, quindi c'è la disabilità, questa donna che viveva in questo e poi... Lui si suicida e il racconto di quest'uomo diventa: era un campioncino di tamburello. Il tamburello è uno sport molto diffuso in Piemonte, uno sport della tradizione. Un campioncino perché in passato aveva giocato. Era un uomo che viveva una disperazione diversa da quella della madre. Perché? Quindi viene fuori l'immagine di quest'uomo, quasi lo si assolve, perché questo povero ragazzo... aveva 18 anni, quindi si strascinava, eccetera, lui non ne poteva più, però anche lì arriva con 6 colpi nella pistola, quindi va a trovarlo con 6 colpi nella pistola. Quindi questa giustificazione, questo tentativo, questi alibi che sono nel nostro racconto quanto da correggere. Dopodiché direte, allora perché che siamo cambiati? Abbiamo migliorato, possiamo migliorare ad esempio non usando i diminutivi. Il finanziatino no, ma proprio no, ma neanche nel caso di Aurora Tilla Piacenza, ricordate quella che era stata buttata giù dal balcone e l'ex finanziatino le aveva con un cacciavite picchiato sulle mani. Ecco, non è un finanziatino, così come non sono baby prostitute quelle dell'inchiesta, o baby squillo quelle dell'inchiesta di Bari. E così come quella è anche, mi porta a concludere, dire all'uso delle immagini. L'uso delle immagini della foto femminile, nel caso delle baby prostitute, la foto era una ragazza, non si capiva ovviamente il volto girato, che si tirava su un detergente con una, diciamo, tendaggi rossi, e chiaramente era indicativo. Invece noi portiamo, non portiamo le coppie, non mettiamo figli minori, non portiamo coppie felici, e se li mettiamo per piacere pixeliamo le foto dei minori, perché non sempre succede, e soprattutto usiamo quelle foto di manifestazioni per raccontare la violenza quando non ci sono le foto di scena, come possono essere quelle delle forze dell'ordine. Grazie Mimma, grazie. Ecco, Mimma ha detto per piacere, però io vi ricordo che c'è proprio il codice deontologico che entra in vigore dal 1 giugno, non è per piacere ma è per dovere, perché quindi è un piacere fin lì, perché dove finisce il piacere inizia il dovere. La continenza noi ce l'abbiamo sempre avuta in tutti i codici deontologici che io ricordi, però in particolare in questa nuova versione che entra proprio c'è l'articolo 13 che impone il rispetto delle differenze di genere, chiede di evitare gli stereotipi, perché spesso noi non lo facciamo per cattiveria ma perché abbiamo dentro uno stereotipo che ci accompagna. La prima parte della relazione sia di Caligaris che di Sacca è che comunque c'è stato un miglioramento, e noi di questo dobbiamo tener conto ed essere, e se oggi si dice femminicidio è perché comunque la stampa, noi col nostro lavoro l'abbiamo raccontato, magari non sempre bene ma l'abbiamo raccontato, e quindi un pezzo abbiamo contribuito a farlo. Certamente c'è sempre uno scatto migliorabile, i consigli che ha dato Mimma Caligaris soprattutto sul racconto politico politicizzato, sui sensazionalismi, sull'uso dei virgolettati, sono consigli molto molto validi che ci guidano nella professione, insomma, e che ci aiutano a migliorare un quadro che comunque è migliorato. Questo è il dato fondamentale di oggi, che il nostro racconto è migliorato dal 2017, anno del manifesto di Venezia, a oggi. Sì, buongiorno. Io sono Vanna Palumbo, sono coordinatrice della Commissione Pari Opportunità Nazionale della Federazione della Stampa, ma sono presidente della Commissione invece di Stampa Romana, che come voi sapete è l'associazione di Roma e Lazio. E ho ritenuto di informarvi di una cosa che può essere utile. Noi abbiamo parlato, giustamente la dottoressa Sacca ci ha parlato per esempio dell'aspetto preoccupante, diciamo, di una magistratura che è ancora legata a stereotipi, molto forte, verissimo. Questo però, e quindi c'è anche qualche notizia positiva da aggiungere, viene denunciato in maniera estremamente efficace da una, diciamo, da uno stuolo, chiamiamolo così, piuttosto che va via via incrementandosi di numero, di alcuni magistrati che sono diventati molto sensibili a questo argomento. Primi fra tutti, quindi volevo darvi questa informazione, è la magistrata Paola Di Nicola Travaglini, che è una consigliera di Cassazione, e il suo marito, che si chiama Francesco Mendittu, che è un giudice del CSM, anche componente CSM, hanno scritto e pubblicato di recente quello che si chiama il nuovo codice rosso, che è una roba, un tomo terribile, diretto ovviamente prevalentemente ai magistrati. Cosa denunciano loro per stringere? Loro denunciano proprio il fatto che, a fronte di quella che noi chiamiamo, diciamo, la vittimizzazione primaria, cioè il fatto in sé, no, che crea la vittima, a fronte della vittimizzazione secondaria, che è il racconto che ne viene fatto dai media, e quindi, come dire, la vittima a volte è rivittimizzata, come è emerso chiarissimamente dai dati della ricerca e dalla splendida relazione di accompagnamento che ha fatto Mimma Caligaris, che ancora ringrazio. E poi, appunto, i magistrati dicono c'è quella terziaria, no? Così per dargli un nome, che è quella per l'appunto che si consuma nelle aule di giustizia, per cui molto spesso si fa ricorso, in una iniziativa che abbiamo fatto sempre qui in federazione veniva enunciato come spesso si fa ricorso proprio a locuzioni, no? Che sono un po' quelle che sono state anche enunciate rispetto a questa cosa. Io aggiungo invece alla fine una, diciamo, un'ulteriore vittimizzazione, che è quella molto spesso anche nei racconti che facciamo noi giornalisti, di raccontare la donna come un soggetto debole. Non lo è oggettivamente, però insomma se ne potrebbe parlare. Grazie.